24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:31 minuti in questo istante, cari ascoltatori, eccoci qua, staremo insieme con il, di consueto fino alle 9. Di cosa parleremo nella seconda parte più avanti? Alle 8:15 parleremo delle novità sullo scontrino fiscale relativo alle farmaci, alle farmacie. Non conterrà più l'addizione del farmaco. E poi tra un'ora parleremo di alcune novità previste per legge che stanno per essere introdotte, visto che l'Italia ha ratificato un trattato internazionale, quello di Prüm, che prevede tra l'altro la nascita di una grande banca dati del DNA, nel quale ci potrebbe essere il prelievo forzoso anche di persone che non sono indagate, se questo serve agli inquirenti. E poi c'è la possibilità anche dei cosiddetti sceriffi dell'aria, vale a dire le guardie armate sui voli aerei, insomma temi che fanno sicuramente discutere. Di questo e altro parleremo più avanti. Prima, come di consueto, c'è la rassegna stampa in onda fino alle 8. Con noi questa settimana a condurla c'è Oscar Giannino, che saluto, buongiorno, è qui a fianco a me. Buongiorno, ecco, buona giornata, buon lunedì 11 maggio, che è l'ascoltatura di Radio 24, e andiamo a vedere un pochino come la stampa quotidiana organizza oggi nelle prime pagine gli argomenti di maggior rilievo. Diciamo che il tema dominante nella maggior parte delle testate è sicuramente quello dell'immigrazione. Abbiamo aperture come quella della Stampa, il quotidiano torinese diretto da Mario Calabresi. L'Italia è già multietnica, questo è il titolo di apertura della Stampa, con un catenaccio immigrati, la c'è replica a Berlusconi, Maroni avanti con la fermezza, e un sommario, la Lega provoca il premier, ormai ti sei pontidizzato, respinti altri barconi di clandestini provenienti dalla Libia, con variazioni sul tema, ma è più o meno l'argomento è analogo al titolo di apertura di Repubblica, immigrati, Maroni, non ci fermiamo, e quindi in questo caso è più sull'aspetto che riguarda la decisione intrapresa dal Ministro dell'Interno di continuare sulla linea dura, e con un criterio opposto e simmetrico, ma la scelta è la stessa fatta da Il Giornale, il quotidiano diretto da Mario Giordano. Il titolo di apertura è, virgolette, non ci fermo, da Mario Giordano. Il titolo di apertura è: fermeremo via tutti i clandestini, con un sommario che poi riporta le dichiarazioni di Bossi, il leader della Lega. Bossi. Questione generale. Poi ci sono dei progetti in corso, perché è evidente che i nostri dati personali non sono solo sugli scontrini, specialmente se dati idonei a rivelare lo stato di salute, sugli scontrini dei farmaci, ma anche per esempio sulle fatture di prestazioni specialistiche. E allora noi, come Istituto Italiano per la Privacy, stiamo lavorando a un progetto di studio per vedere di codificare, iniziare a codificare tutte le prestazioni specialistiche che vengono normalmente svolte in ambito medico, per poter arrivare di fatto a qualcosa di molto simile a quello che oggi è riportato con il provvedimento del garante sui farmaci, e cioè che invece della prestazione risulti un codice sulle fatture. Dottor Bolognini, il tempo a nostra disposizione è scaduto, io la ringrazio, naturalmente torneremo a risentirla di nuovo per farci raccontare da lei come sta procedendo questo lavoro, come sta andando avanti questo progetto. Alessandro. E allora Salva Danaio, sì, noi oggi a Salva Danaio parliamo di assicurazioni. C'è una conciliazione che è stata siglata fra Poste Vita e le associazioni dei consumatori. Oggi cercheremo di capire di che cosa si tratta. 24 mattino. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Sull'immigrazione l'Italia continuerà con la linea di fermezza finché gli sbarchi non cesseranno, lo ha detto il ministro degli interni Maroni. In pochi giorni sono stati respinti oltre 500 immigrati. Il Papa oggi è in Israele, la tappa più attesa del suo viaggio in Medio Oriente. Oggi pomeriggio la visita allo Yad Vashem, il museo dell'Olocausto. Ieri Benedetto XVI ha sottolineato il coraggio di restare in Terra Santa per i cristiani, come testimonianza contro coloro che giustificano lo stroncare vite innocenti. La pagina sportiva, il calcio, è finito 1-1 il posticipo Milan-Juventus ieri a San Siro, vantaggio rossonero con Zeedorf e pareggio di Iaquinta. E così l'Inter, che pareggia Verona col Chievo, rimane a più 7 sul Milan e domenica prossima in casa col Siena può vincere lo scudetto numero 17. Per la Formula 1, quarta vittoria stagionale invece per Jenson Button sulla Brown GP, davanti al compagno di squadra Barrichello. Per la Ferrari, sesto Massa. Infine al Giro d'Italia, vittoria ieri in volata di Alessandro Petacchi a Trieste, davanti al britannico Cavendish, che è la maglia rosa. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. La parola da tenere a mente, come detto, è il trattato di Prum, che è un trattato firmato nel 2005 da alcuni stati dell'Unione Europea, il cui scopo essenziale è sostanzialmente aumentare il coordinamento tra i vari stati in materia di indagini giudiziarie, di prevenzione di reati, eccetera. Uno, allora, dei più importanti settori, delle più importanti novità per le quali c'è l'accordo, è quello della creazione di una banca dati del DNA. Una banca dati del DNA che, DNA che verranno conservati per 40 anni, un archivio che raccoglierà il DNA delle persone condannate, imputate, indagate, ma anche delle persone non indagate. Insomma, qualcuno ha avanzato dei dubbi e delle critiche, come il caso del giudice della Corte d'Appello di Milano, Amedeo Santosuosso, che voglio salutare. Buongiorno Santosuosso. Buongiorno. Tra l'altro lei insegna anche diritto e scienze della vita a Pavia, è un giudice molto impegnato su questo fronte. Perché le critiche, quali critiche alla possibile creazione di una banca dati del DNA in Italia? Ma devo dire che le critiche non sono alla creazione della banca del DNA in Italia, che è una cosa assolutamente essenziale e giusta. Le critiche sono al modo in cui si sta realizzando questa cosa, perché il Parlamento italiano si ostina, direi, a non tenere conto del fatto che pochi mesi fa, a dicembre del 2008, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affrontato proprio questo tipo di problema in relazione all'Inghilterra e ha detto una cosa molto semplice: qui bisogna bilanciare le esigenze di sicurezza della società e i diritti delle persone. Il modo di bilanciarli è stabilire i criteri in base ai quali si entra nella banca del DNA, quindi se si è imputati, indagati per determinati reati. Ma questo significa anche che quando si è assolti per determinati per quei reati bisogna essere cancellati. Bisogna uscire da questa banca dati. Bisogna uscire dalla banca dati, perché a quel punto diventa ingiustificata la violazione della sfera personale delle persone. Nel caso della legge che è in discussione al Parlamento italiano, invece, vi è una porta di entrata molto grande, perché si può entrare anche senza essere indagati, e entrano anche le informazioni genetiche sulla parte lesa, e quindi pensiamo anche ai casi di violenza sessuale, stupro. Cioè chi subisce una violenza, per esempio, una donna che subisse una violenza entrerebbe in questa banca dati? Ma sì, perché nel corso delle indagini, certo, è ben possibile che sia necessario isolare il DNA della persona in relazione e per distinguerlo dal DNA dell'aggressore. Sono cose che avvengono normalmente e fortunatamente, sono dei mezzi straordinari di indagine, però chiaramente sì, poi la legge prevede che tutte queste informazioni finiscano nella banca del DNA nel corso del processo, e questo può avere un senso, però poi non ha senso che nel momento in cui per nuove indagini si vada a interrogare la banca del DNA si trovano anche dei dati di persone, sì, che sono vittime di reati e non autori. Un altro punto che lei ha detto, insomma, che anch'io ho citato, è che anche le persone non indagate potrebbero rientrare in questa banca dati. Tra l'altro noi abbiamo anche qui il relatore della legge, tra poco ribatterà, insomma, ma in che cosa lei vede un punto delicato? Cioè il fatto che anche una persona non indagata possa entrare in questa banca dati è un rischio di violazione della privacy? Ma guardi, intanto diciamo che la legge prevede il prelievo coattivo di campioni biologici anche da parte nei confronti di persone non indagate. Questa cosa non esiste in nessun paese al mondo, e anche in Italia è contraria quantomeno all'articolo 13 della Costituzione. Cioè, se vi è una esigenza di tipo investigativo di questo genere, allora o riguarda persone che entrano nel processo perché vi sono dei sospetti su queste persone, o altrimenti, se le persone sono estranee, possono essere invitate a collaborare dando dei loro campioni, ma non costrette, perché se si ritiene che sia necessario costringerle, allora vuol dire che si entra in una logica completamente diversa. Allora, invitate non in modo coattivo. Vediamo, visto che abbiamo Manlio Contento, onorevole del Popolo della Libertà, buongiorno Contento. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lei è il relatore di questa legge che recepisce questo trattato di Prum, ripeto, un trattato tra alcuni stati europei, si sta facendo la legge che ne ratifica il trattato, come previsto per tutti i trattati, in Parlamento, e si prevede questo. Ecco, partiamo da questo: perché una persona non indagata, che certo possa rientrare in qualche modo in una indagine, perché però una persona non indagata deve in maniera coattiva, se è vero, dare il proprio DNA? Ma l'esempio più banale che posso fare per comprendere o per far comprendere l'importanza di questa norma è ad esempio la contaminazione avvenuta sulla scena di un crimine. Ipotizziamo che sia indispensabile sapere a chi appartiene il campione biologico che è stato trovato e si conosce l'identità di chi è passato attraverso quella scena, può essere un appartamento. È evidente che il magistrato, qualora si trovasse di fronte ad un rifiuto per l'accertamento, rischierebbe di svolgere delle indagini non soltanto più faticose, ma che possono anche comportare delle conseguenze di difficile accertamento nei confronti dei fatti che sono oggetto di quel procedimento. Del resto, va anche ribadita un'altra cosa: l'accertamento nei confronti di persone diverse dall'indagato o dall'imputato viene effettuato solo nell'ambito del procedimento penale e non può essere assolutamente repertato né come campione biologico né tantomeno come profilo del DNA. Cioè non viene tenuto, non viene conservato il DNA. Può essere conservato soltanto per le esigenze processuali e quindi fino a che interviene il decreto di archiviazione o la sentenza di assoluzione. Lo scopo quindi è quello di adiuvare il magistrato nella conduzione delle indagini. Quindi se la persona non è imputata, non è indagata, non rientra nella categoria delle persone successivamente condannate, non vi è alcuna possibilità di conservare il campione biologico e tantomeno il profilo. Già, onorevole, si è fatta una polemica in passato, per esempio, sulle cosiddette banche dati che verrebbero tenute da, non so, i RIS, cioè tutti quei reparti già che indagano e che, voglio dire, in maniera, come definirla? Cioè in maniera informale, in maniera per le indagini che si fanno, cioè ci sono delle banche dati previste del DNA, ma che, voglio dire, non sono regolate per legge, oppure sì? No, lei ha perfettamente toccato il problema del nostro paese. Noi abbiamo delle banche dati che sono, tra l'altro, grazie al cielo, sorvegliate indirettamente anche dall'autorità competente in questo campo, che ha dettato delle disposizioni specifiche nella tenuta e anche nell'accesso di queste banche. Però, paradossalmente, nel nostro paese non sono ancora stati oggetto di una regolamentazione precisa, come si intende fare approfittando del trattato di Prum. E quindi, una volta che entrerà in vigore questa legge, vi sarà l'obbligo in via transitoria di trasmettere, sempre sulla base delle disposizioni di questa legge di ratifica, i campioni esistenti, naturalmente nei confronti poi delle persone che rientrano nelle categorie che lei ricordava, persone appunto che hanno subito condanne in via definitiva per determinati reati, ci sarà il trasferimento e la creazione quindi delle due banche dati. Io vorrei sentire dal giudice Santo Suosso perché poi c'è l'altro punto interessante che prevede il trattato di Prum, oggi ne parla anche il Corriere della Sera. Giudice Santo Suosso, la rassicura il fatto che per esempio per le persone non indagate, come ha detto l'onorevole Contento, vengono utilizzate solo per i fini processuali, laddove poi non vengono repertate, non vengono mantenute, è una rassicurazione che la conforta? Ma io vorrei essere rassicurato in questo senso, però non mi sembra che il testo della legge sia molto chiaro su questo punto. Secondo me il testo è suscettibile di un'interpretazione diversa. L'interpretazione che ne dà l'onorevole Contento, se è chiaramente specificato nella legge, sicuramente mi rassicura. Ma voglio ricordare che comunque c'è il problema che la cancellazione dei profili del DNA è prevista solamente in caso di alcune formule di assoluzione e non per altre formule di assoluzione, che è una disparità di trattamento assolutamente irragionevole che ci pone contro la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allora, l'altro punto, onorevole Contento, oggi ne parla il Corriere della Sera: niente armi sui nostri aerei, questo è già il titolo, perché il trattato di Prum, quindi la legge in discussione che ne recepisce tutto quello che è contenuto, prevede non l'obbligo, per carità, ma la possibilità anche di far entrare i cosiddetti sceriffi armati sugli aerei per le compagnie che lo volessero. Oggi c'è già il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, che dice: innanzitutto, se anche dovesse esserci questa cosa, deve prima passare dal nostro vaglio, noi dobbiamo certificare tutto, altrimenti non se ne fa nulla. E poi vorrei vedere i costi delle cose. E poi ci sono i piloti che dicono: ma attenzione, mettere una persona armata sull'aereo è proprio l'intervento finale, estremo, pericolosissimo. Allora, arriveranno gli sceriffi sui nostri aerei, onorevole? Ma questo fa parte di una disposizione specifica del trattato che prevede proprio l'utilizzo di guardie armate a bordo degli automobili. Non dobbiamo dimenticare che il trattato nasce anche dall'esigenza di un contrasto al terrorismo e all'immigrazione illegale. Per cui si è pensato, all'interno di quella discussione tra i paesi sottoscrittori, di poter effettuare un utilizzo anche di guardie armate a bordo degli aeromobili, le quali però, non dimentichiamoci, saranno dotate di un addestramento specifico e non è detto che utilizzino armi in senso, diciamo così, convenzionale, sì, quelle che siamo abituati ad immaginare. Ma lei non la preoccupa o la conforterebbe essere su un aereo? Per esempio, io che ho preso la El Al, la compagnia israeliana, lì non è detto, ma insomma si sa che ci sono per esempio le persone armate a bordo, però a me conforta, voglio dire, non ho mai viaggiato così sicuro come sulla El Al, e non è uno spot pubblicitario ovviamente, però insomma la conforta o la preoccuperebbe sapere che c'è una persona? Io le dico che, visto anche il livello di addestramento che alcuni uomini delle nostre forze di polizia hanno ormai acquisito, soprattutto in campi di lotta al terrorismo, io mi sarei rassicurato. Non dimentichiamo, ripeto, l'addestramento specifico cui saranno sottoposte, per cui noi non dobbiamo immaginare le sparatorie all'interno dell'aeromobile, eccetera. Dobbiamo immaginare che per ragioni di sicurezza ci sia comunque una persona armata. Io ricordo il caso di quel inglese che venne arrestato sull'aereo a seguito poi di un intervento degli Stuart. Sì, con la scarpa. Ritengo che avere sostanzialmente a bordo persone qualificate che sanno come muoversi, come reagire in certe situazioni con alta professionalità, sia una garanzia per tutti i cittadini. Poi è evidente che ognuno di noi si augura che non debba mai succedere. Questo che sì, succeda. E soprattutto che non si aumentino i costi, perché ovviamente avere un personale così qualificato, addestrato, immagino che poi abbiano, comporti dei costi per le compagnie aeree, insomma. Sicuramente, però le ragioni di sicurezza, pensiamo ad esempio ad alcune compagnie sensibili, lei ne ha citata una, credo che rendano la possibile questo anche scambio, diciamo così, di ragioni di sicurezza. Non dimentichiamo poi che tutti questi aspetti sono fortemente regolamentati e lo saranno ancora di più in sede di esecuzione. Allora, io vi ringrazio, vedremo se verrà appunto recepita la Camera, poi un passaggio tecnico al Senato, ma questo trattato di Prum, con le novità che abbiamo, alcune delle novità che abbiamo spiegato, insomma, entrerà in vigore in Italia. Ringrazio il giudice Amedeo Santosuosso, giudice alla Corte d'Appello di Milano e professore docente di diritto e scienze della vita a Pavia, così come l'onorevole Maglio Contento del Popolo della Libertà. Allora, si chiedeva Ernesto Galli della Loggia qualche giorno fa sul Corriere della Sera: ma perché in un'Italia in cui i parlamentari possono stare, se eletti, alla carica quanto vogliono, non ci sono limiti, così come tutte le altre cariche sostanzialmente, abbiamo invece un assurdo limite ai bravi sindaci, così lo definisce Galli della Loggia. Noi italiani, scrive, abbiamo deciso che anche se siamo riusciti a trovare un bravo sindaco per la nostra città, onesto ed efficiente, dopo due mandati dobbiamo per forza licenziarlo. Si può immaginare qualcosa di più stupido che rinunciare all'operato di chi si è rivelato capace di servire ottimamente la collettività solo per rendere omaggio a un principio per giunta sbagliato? Allora, io so che l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, la cui presidente è Franca Biglio, che saluto, buongiorno. Anch'io, saluto voi. So che vi battete strenuamente. Quando ha letto questo articolo, questo editoriale di Galli della Loggia, cos'è? È sobbalzata sulla sedia, dice: finalmente qualcuno capisce. Finalmente qualcuno capisce. Lei è vice sindaco di Marsaglia, in provincia di Cuneo. Diciamo subito che però lei è vice sindaco perché? Perché non può più fare il sindaco. Il limite di mandato nel 2004 è scattato anche per me il limite dei due mandati consecutivi, 10 anni. Sì, certo. E quindi svolgo le funzioni, pienamente le funzioni di sindaco, da vice sindaco. Che anche questa detta così è straordinaria. Pensa se ci sta ascoltando il suo sindaco, che però lei forse è lei che è il vice sindaco suo, mi viene da dire. Ma guardi, è un ragazzo che praticamente ha risposto all'esigenza della popolazione. Il mandato della popolazione è stato questo: Franca, metti sindaco chi vuoi, l'importante è che in comune ci sei tu. Questo ragazzo, e ci vuole anche un notevole grado di intelligenza e di umiltà per poter accettare una cosa per accettare genere, che il vice sindaco decida più del sindaco. Comunque, insomma, il problema è questo. Tra l'altro, sa che a Galli della Loggia hanno risposto il senatore Collino e l'onorevole Valducci, che sono i responsabili degli enti locali del Popolo della Libertà, qualche giorno dopo, a dire no, ci vuole il limite a due mandati, certo, perché bisogna aumentare il senso civico con il ricambio, allargare la partecipazione alla democrazia, non andare a creare quella routine di gestioni di interessi che poi diventano spesso privati, scambiare le città per interessi privati. Insomma, ci vuole questo ricambio. Perché invece no, secondo lei? Beh, intanto hanno anche detto per eliminare incrostazioni di potere. Sì. E questo è vergognoso. Io sono scandalizzata e vorrei che al Parlamento potessero almeno per 5 anni accedere solo i sindaci o gli amministratori dei piccoli comuni con un'esperienza di almeno 10 anni di sindaco in un piccolo comune, perché pontificare come fa questa gente che non ha la minima esperienza, non sa cosa significa fare il sindaco in un piccolo comune, dove fare il sindaco deve essere semplicemente una missione, perché più che un onore è un onere. Ecco, allora questa gente dovrebbe capire. Però detto da queste persone, io mi stupisco, perché se davvero il limite di mandato ha dato così frutti positivi, perché non lo estendiamo a tutti? Questo infatti è Galli della Loggia lo dice, insomma, che tant'è vero d'accordo. Che nel Parlamento, il luogo principe dove potrebbe esserci il limite di mandato, questo limite di mandato non c'è. Però mi scusi, le chiedo, non è che ne so, nei piccoli comuni è vero, ci vuole l'esperienza, d'altronde quant'è lo stipendio di sindaco in un piccolo comune? Guardi, io di preciso non glielo so dire perché non lo ritiro, però mi pare che ammonti a 1500 euro lordi. Insomma, che vuol dire che lei non lo ritira? Cioè, lo ritiro perché lo lascio in comune. Certo. Ah, lo lascia in comune. Io mi vergognerei ad applicare l'addizionale IRPEF ai miei cittadini. Marsaglia non l'abbiamo mai applicata, l'addizionale IRPEF comunale. Paghiamo quella regionale ma non quella comunale per ritirarmelo questa famosa indennità. Ecco, però le chiede, la domanda era questa: non crede che che un limite di mandato, per esempio in una città come Milano, in una città come Roma, Torino, Napoli, lì sia necessario, perché altrimenti sennò si rischia veramente di identificare una persona e tutto il potere che gli sta intorno con la città stessa? Guardi, io sono per la parità e l'equità fra i candidati alle diverse cariche elettive politiche. Sono convinta che la libertà di scelta dell'elettore debba essere sovrana. Poi però nelle grandi città non voglio entrare nel merito, ma nei piccoli comuni, in particolare nei piccoli comuni montani, dove diventa anche difficile il ricambio generazionale, lo trovo un'assurdità. In un paese democratico credo che la giustizia debba essere assolutamente rispettata. Quindi io direi a questo punto, molto brevemente, 10 anni sono così positivi? Va bene, lo accettiamo, ma per tutti. Consiglieri regionali, perché loro no, e neanche i presidenti di regione no. Non sono vincolati a questo limite, soltanto i sindaci e i presidenti delle province. Estendiamolo a tutte le cariche pubbliche elettive. E anche il Presidente della Repubblica, infatti Galli della Loggia diceva, anche il Presidente della Repubblica ha il vincolo di due mandati, solo che si crea il paradosso per cui il Presidente della Repubblica può stare ben 14 anni di seguito, quella del sindaco di Abbiategrasso, tanto per citare un sindaco, citava della Loggia, invece solo per 10. Ma certo. Quanti della sua associazione dei piccoli comuni hanno trovato l'escamotage come lei? Parecchi. Non tutti, beh, molti poi hanno trovato un altro tipo di escamotaggio, cioè? Hanno candidato la moglie, hanno candidato il figlio, hanno candidato i parenti, il fratello, le sorelle, nell'ambito familiare. Beh, guardi, però è assurdo. Ecco, appunto, no, almeno conveniamo su questo, voglio dire, va bene aggirare la legge fatta l'inganno, ma candidare il fratello, l'amico, la moglie per poi governare comunque da marito, da moglie. Esatto. Però vede, l'Italia è fatta così, quindi non bisognerebbe fare delle norme, delle leggi che poi possano essere aggirate in questo modo vergognoso, perché è anche brutto. Guardi che io ho fatto il sindaco per 5 anni nelle vesti di vice sindaco, ma le garantisco che dentro di me, perché i cittadini veramente si sono sempre rivolti a me, non ci sono problemi, non hanno mai fatto sentire un minimo cambiamento di passaggio, però dentro di me, a livello morale, non è bello, io non mi sono sentita bene. Si sentiva dimezzata, diciamo. Perché comunque riconoscevo il mio sindaco. No, ma è chiaro. Guardi, io mi devo fermare qui, Franca Biglio. Chissà se nella vostra battaglia che portate avanti, lei ricordo il presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, oltre che vice sindaco di Marsaglia, Cuneo, se riuscirete a togliere questo limite ai 2 mandati, anche per evitare di mettere mogli, mariti e affini a governare i comuni al posto vostro. Grazie, tra poco Giuliano Ferrara parla del viaggio del Papa in Medio Oriente oggi in Israele. Grazie Alessandro Marco Tulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Qua è caduto tutto. Intanto noi ci ritroviamo domattina.